Lara, mi appaga. No, mi stavo collegando la luce del rosmetro all'alimentatore, che non gliel'avevo mai collegata. Io l'ho fatta apposta. Cosa? A me mi si sono fulminato il lampadino di girare. E ne ho messo in tutto un bel bellino che avevo cominciato. Sì, sì, sì. Le macchie gliele voglio mettere blu al Daiwa, capito? Perché sono bianche, queste originali. Sì, poi le ho messo quelle a letto, le ho messe quelle che hanno già la resistenza attaccata, da quando le compri, ce l'hanno già attaccata, non c'è bisogno di metterle. E praticamente ho pagato che ha collegato in figlio e basta. E rendono molto, le altre che c'erano di quelle normali si fanno bene, ogni tanto si bruciano. Se ho cambiato più poco si bruciavano sempre, alla fine mi sono rotto le palle. No, io avevo comprato una striscia LED da 5 metri blu, non faccio altro che tagliarne 3 LED, perché ogni 3 LED che c'è la resistenza, e c'hanno l'adesivo, l'attacco issa ed è perfetta. Avevano detto che ci sono queste strisce blu, non lo sapevo. Sì, a 12 volt sempre solo. SMD hanno una resistenza talmente piccolissima, guarda, che vanno bene anche per i baracchini queste luci, queste strisce LED, perché ti tagli il pezzo della tua lunghezza che vuoi, ogni tre LED naturalmente, e vanno di lusso, capito? Le puoi mettere a appiccicare dove vuoi, perché stacchi la sua carta ed è adesivo poi la striscia LED, capito? Ma poi guarda, devi mettere il capo elettrico. Cosa? Una volta che le tagli devi mettere il capo elettrico. Sì, quando tu tagli c'ha sempre due puntalini, no? Per saldarli i fili. Ah, ho capito, non lo sapevo. Non le ho mai viste queste cose qua. Ma lo stavano dicendo, dice, se metti quello che ti illumina tutto lo strumento completamente, mentre invece se metti le lampadine ti lascia in ombra certe parti, capito? No, è così. Ti mando la foto, aspetta. Sì, venga, Roggero. Vai in dry. Adesso un bellino esce. Io ti mando il mio, io ho tipo un nero. Un nero fatto a letto. Sì, no, queste sono comodissime. C'ho la parte, diciamo, del mobile bianca, gli ho fatto il giro con la striscia bianca, e quella degli strumenti è blu, dove illumina la radio da sopra, quella è blu, e quella invece che devo cambiare, che voglio cambiare dello strumento, del rosmetro, sono due lampadinette bianche, che però voglio cambiare al più presto con delle luci blu. Io guarda, ce le avevo, perché le avevo fatte arrivare per mettere in quell'apparecchio. E invece me le hanno mandate troppo grosse e non ci entravano nei buchi. Erano quelle più fine che ci volevano. Me le hanno mandate troppo grosse, quindi le ho conservate e le ho virate quelle più piccole. Infatti veramente le ho virate 5, per metterle più da per quell'apparecchio mi ha debuttato con le buccette, con le fine. L'ho messo anche nella parete, l'ho fatto blu. Non mi ricordo il colore radio gliele avevo messe, quelle blu. No, qua non c'era, le abbiamo messe noi, le abbiamo messe io con Luca. Cioè Luca me l'ha sistemato. E ha dovuto smontare il mezzo frontalino, ma è un casino mi ha messo, non ti credi che si ammazza. Lo so, un po' di pazienza ci vuole. Però attaccano bene e fanno molta più luce rispetto alle lampadinette. Sì, è vero, fanno più luce e poi, sai, quelle per gli strumenti sono gialle, a me non mi piace, ci sono quel bianco sporco, quel bianco giallo. Anche quelle del Galaxy sono gialle, però che ci sta bene, perché c'è il colore a fianco verde, quindi ci stanno bene. E poi i led non scaldano, né, sai che a volte la lampadina scaldando ti fa il vetro col tempo, o il pannello dello strumento te lo fa di giallo, il led no, perché è sempre freddo. E io le garage le avevo cambiate, le avevo messo con le lampadinette con filo che vedono a 12 volts, quelle allungate. Quando le sostituirò le metto quelle bianco ghiaccio a led. Allora, ho visto, ma sono di compagno una striscia, ecco, c'hanno €5 da zincometri, a voglia pure i lampadini, bordiletto, ti puoi fare. fare bordo mobile, capito? Sì. Ma no, dovevi mettere con le lampadine strisciata così. E te lo facevo bello, ti illuminava la giorno tutto lo strumento. Errore che hanno fatto in questi strumenti, perlomeno io parlo del mio, del Daiwa 901, è che l'interruttore gliel'hanno messo dietro, perché dietro all'interruttore per la lampadina è l'interruttore del PEP Gold, mentre io avrei messo la lampadina almeno davanti il tastino, capito? Perché se tu hai tutto incassato, tipo come c'ho io, no? Se devi pulsare tutta la roba per poter accedere dietro all'interruttore della lampadina, capito? Se no devi lasciare sempre acceso, quando accendi l'alimentatore sta accendendo tutto un pari, ma di giorno di tenerla acceso non me ne affatti nulla. Ma infatti, anche con i cavi degli alimentatori fanno così, ce ne sono oggetti che sono dietro, ce ne sono oggetti che sono davanti. Se uno deve incalzare è un casino, deve lasciare accesi e meglio davanti, a portata di mano, io perlomeno la penso così. Ma ti credi che sta molto? Adesso guardo se c'è lo spazio, gli faccio un buchetto e gli metto l'interruttorino davanti a Rosmetto. Ma dipende sempre lungo da quello che devi fare, perché se ti metti dei cavi grossi davanti sono brutti, invece dietro di qui. Io c'ho un alimentatore che lo vi adesso ho portato a aggiustare, quello lì in casa c'ha, è tutto grosso, c'ha gli attacchi grossi, i cavi li ho messo quelli da tre, quelli grossi che usano per fare gli impianti stereo, da 2 euro al metro, di quasi. Hai fatto bene, perché magari radio assorbono, è meglio cavi grossi, certo. E te lo ricordi? Davvero il 140, il 440, quelle radio lì, ogni cavo che hanno. Perché già l'ho avuto due, il 140. Adesso ho messo due dito di aver venuto quello che avevo ordinato al cliente. Quello lì, tecnocomunicazioni, ogni volta che perché facevano le fiere, ogni volta che facevano la fiera mi diceva, mica mi è entrato un 140, un 440, se ti può interessare. Prima revisione. Uno dice già questo qui è nuovo, c'ha le 2062, però è consumato, io conoscendoti so che tu non lo vuoi. E io sento sì, è vero, se è a posto come apparato mandamelo, me l'ha venduto 32 euro e poi ho comprato le 2060 a parte 170 euro, me l'ha finito, però almeno ci avevo, era perfetto, ma io l'ho testato, non ci aveva nulla da toccare, era perfetto. Sì, hai fatto bene, poi appunto te lo revisionano loro, te lo controllano loro e spediscono roba garantita. Così invece comprare da privati purtroppo a volte non sai cosa stai comprando. Se incappi male ti la faccio luci. Poi ho venuto la fatica. Se si muovi a farmi un pagamento, Vicky. Che a meno di 2,50 non lo do intanto già. Purtroppo, piuttosto lo lascio qua, gli metto magari un microfono a tavola e ogni tanto lo accendo. Così, K. Ma 2,50 è un po' caruccio. 200 già è un prezzo alto, perché cazzo 200 è un Galaxy Saturn Echo, che è migliore di questo. Senz'altro, ma siccome qua stiamo parlando di radio d'epoca, e radio tra l'altro introvabili, non è come il Pony, come l'Asri, come ti si chiama, che l'ha lasciata dare dall'angolo, cerca questo e poi mi dà la risposta, cercalo, ma non oggi, cercalo domani, dopodomani, fra 6 mesi, se me lo trovi in vendita, uno come questi, allora ti posso dar ragione che si può vendere anche a meno. Appunto perciò, perché la radio d'epoca c'ha i componenti già usurati, da un momento all'altro ti può partire una cosa, ti può partire l'altra, e pagava quel prezzo per cui magari dopo poco tempo fermarsi l'apparecchio, ma non è vero la cosa. Sì, è un bel apparecchio, non lo metti in dubbio, io ti avevo già fatto lo spazio per metterlo. Cazzo, mica in mano me già, insomma l'hai visto. Grande come apparecchio, capito? Secondo me gli vale quei soldi per un collezionista, attenzione, non per una persona che lo deve mettere lì, usarlo o a smanettare. farlo, eccetera, eccetera. Un collezionista significa una persona che lo accende ogni tanto, ce l'ha sempre davanti, quello, non uno che le deve smanettare con watt, con lineari, perché sono radio d'epoca, capito? Ti può andare bene, che ti funziona smanettando tutti i giorni, il giorno ti si ferma, devi tirare a fine, perché è una radio vecchia, d'altronde, non è che ci si può pretendere chissà che cosa, no? di smanettarlo, eccetera, eccetera, perlomeno. Queste sono radio da collezionisti, io le chiamo radio da collezionisti, non radio da smanettare tutti i giorni. Ma io la radio ci sono, la voglio più usare, ma poi se me la guardo e mi piace è tanto di guadagnato, perché a me le radio mi devono anche piacere esteticamente. C'è gente che dice più di quello che esce bene, ma non mi piace come estetica, per dire a me, il presidente come estetica non mi piace, e mi puoi dire quello che vuoi ma non mi piace. Il presidente? Esatto. Vedi, però vedi quanti c'è di vecchio stampo appunto, dal Poni a tutti gli altri, però infatti è questione di gusti, poi uno li compra uno diverso dall'altro proprio perché è un collezionista, però ti devi pure un piazzino, hai detto bene. E ma perché se le lascio? No, non ne vendo qua, ho già, non ne vendi, no. A parte che appunto come hai detto tu è caruccio qui e là, però trovi sempre il collezionista che ti ridazzi sempre di più, capito? Così che il collezionista è quello che te le paga le cose, non il CB così, perché ti dice no è trucco, ma che sono un tratto, e allora non sei un collezionista. Vabbè. Magari te lo compra quello lì. Ma te te lo vuoi? Sì, lo sto tenendo buono proprio perché è quel prezzo lì, capito già, ma se non c'è quello cercherò, lo metto in vendita sempre a quel prezzo lì, qualcun altro lo prenderà. C'è conservato, l'ho già tutto smontato, pulito e messo già da parte, capito? No, perché io non sono amante di queste cose, capito? Già, poi non c'è neanche lo spazio dove metterlo, sicché io lo compro per poi rivenderlo, capito? Però qua difficilmente che compro per rivendere qua, perché tanto non la trovi la persona che te lo vuole pagare bene. Qua sì, perché se fai un conto su tutti i fatti, dei carri come ho fatto io, un apparecchio già usato, si può guastare da un momento all'altro perché i componenti sono già tutti usurati, se c'è tanti anni sono usurati sicuramente, per cui uno se te lo paga 200 euro qua è darti molto. Guarda, questo mi ha detto, ti do 200 euro anche se non funziona, siccome funziona io glielo do 250. Vabbè, se riusciamo bene. Eia. Oggi c'è un po' di venticello, ma niente di che. Sì, e poi c'è una propagazione. Boh, non lo so, io sono rientrato adesso. Poco fa non hai sentito quel tedesco? Sbagliato tedesco mi pare. Quando era Vatieri che c'era una bella propagazione mi pare. E io ho parlato con Lecce, la zona di Lecce. E quando? Ci sono quelle giornate che anche se sono brutte però si apre una propagazione allucinante. Sì, il vento. Vento, trasportami dei clandestini, allora. Io di prenderli da fuori invece Luca non mi fido, perché una volta ho preso un Galaxy su internet ed era con la scheda di 40 metri, però c'aveva questo ronzio quando parlava, era una limitazione, poi l'ho dato aggiustare a Massimiliano. Ha tenuto per un po', ha cambiato bobina, ha cambiato questo, ha cambiato l'altro, sono speso un bel po' di soldi, poi non ha cambiato più di vacuno, ma l'ha tomato. Che pita. Ma funzionava a 12 perché? Funzionava, ma ronzava. Quando parlava ronzava, ci diventava alternata. Ma io dopo ci ho pensato, poteva fare un buco. invece poi l'ho regalato a Padre Pio, alla Bonanima, se l'ho regalato perché diceva per pezzi, poi lui aveva l'alimentatore, ce l'ha chiamato e l'ha buttato. Lo scegli questo che è la fricca che mi ha regalato. Vabbè, hai fatto comunque un buon gesto. Sì. Diciamo che mi ha dato una cifra simbolica perché non voleva fare il regalo e mi ha voluto dare una cifra simbolica. E comunque questi ci sono stato un ecco su Facebook, 350 euro. Qual era? Non è riuscito a venderlo quello là, quella 140 euro, quella di Sassari. Secondo me è rotto quella radio. Allora, ho visto che una ragazza di Ussi, che non sapeva manco che esistesse una CB a Ussi, ha mandato a quello che fa qua azzurro, quello che dice non si può aggiustare questo qui, il lavoratore è troppo complicato, quello lì, l'ha mandato un garage, Saturn Echo e un altro apparecchio da aggiustare. Ma Sassa, io ne ho visto uno a 140 euro, boh. A 140 euro, boh. Sì, anche io sentì un'altra persona che l'ha avuto 150 euro ed era buono l'apparecchio, non stava ancora usando. Però probabilmente 140 euro lo sta vendendo, c'è qualche difetto, perché il Galaxy, io i difetti del Galaxy li conosco, ho avuto roba di 5 di Galaxy, Saturn Echo. Mai turbo, ma Saturn Echo ne ha avuto 5. E io mi sono anche stato un turbo, comunque non è male. A me non piace, con la tastiera che c'ha davanti, è meglio questo come stiletto. Non mi piace con la tastiera, non stona, non rovina, è più bello questo. E c'ha la tastiera con le memorie, dopo non ti rimbai. Questione di gusti, poi hanno arrivato l'altro modello, 3 o 4 non è arrivato così. Sì, ne hanno fatto, c'è il Petrus, c'è quello della Lafayette, insomma c'è il Midland, sempre erano fatti sempre uguali a Saturn Echo, però a quel caso, dai, abbiamo messo la marca loro. Sì, me l'ho visto. A me perché è una radio troppo grande, è un barattino alla fine, non è chissà che cosa, tanto è più grande di un 140 che 140, diciamo, con tutto quello che ha se lo mette in tasca, in watt e in modulazione eccetera eccetera, per me quello è un barattino con un mobile, capito? Troppo grande. È tutto quello che a me piace. Però esce anche bene, non è solo un baracchino come dici tu, esce un bel bene di radio, tutti lo dicono. Sì, senz'altro già, ma ce ne sono baracchini veicolari con microfoni da tavolo che escono benissimo lo stesso. Non è perché è grande quanto un mobile che esca meglio di un altro perché è più piccolo. Secondo me vi confondete lì, vi fate prendere dalla grandezza così di questo baracchino che poi dentro c'ha un classico baracchino come tutti gli altri. No, aspetta, ferma tutto. Io non ho mai detto che ci siano baracchini che non escono bene come questo. C'è il brutto, c'è il Typhoon 2 che esce bene, ce ne sono diversi. Però il fatto dell'estetica a me piace, perché è un apparato completo, c'ha tutto, c'ha il rosmetro, wattmetro, c'ha il frequenzimetro, c'ha i canali segnati, più di luci di lui, c'ha le bande. Cioè è un apparecchio completo da base, tu solo con quell'apparecchio lo attacchi a 220 si ha detto, non devi avere né l'alimentatore né niente, e quello è il bello di questo apparecchio, capito? Solo che ha il problema che l'alimentatore prima o poi rotano perché lui la mette, non so cosa succede, si incollano. E ha avuto sempre quel problema, ma quello si può risolvere benissimo, o ritrovo un alimentatore della switch che è della stessa grandezza, un trasformatore, oppure per benissimo fanno un attacco di 10 volts esterno e attacchi all'alimentatore. Io lo stesso sto usando quelli switching senza strumenti, da 50 ampere, gli do anche tutta la potenza della radio, non ricordo, manco lo bene. vanno benissimo, poi se non vanno strumento già me la fa. Se voglio li attacco gli strumenti. L'avevo fatto ad altri alimentatori per altre persone di qua della zona, a metterli due strumenti, l'interruttore on off, capito? Sì, infatti. Qui sempre anche quello di fare la ingustia, a me mi piace avere, ma io ho il posto, è piccola abilità, ho il mobile, l'apparecchio è incastrato dentro il mobile, non si vede nulla, quando io voglio chiudo tutto, gli sportelli non si vede più niente. Io ho proprio il mobile con tutte le apparecchiature, ogni piano c'ha il suo alimentatore, il suo strumento, eccetera, eccetera. E non mi è fatta bene, non è molto grande. Ci stanno benissimo per gli affari tutti qua. Avanti, mi Dio Giulio si è sentito toccare. Buonasera. Ciao già. Ciao Luca. Cose che state combinando? Vi mettete in riga tutti e due. E vabbè dai. Ho appena acceso. Ero su. Mi stavo giocando. Oh Lu, spedite, quella fare verrà spedito il 18, il giorno 18. Vengono addirittura loro a prenderlo. Il corso, lo spedizioniere viene direttamente a casa, mi dà una ricevuta, un codice attaccato al pacco e se lo prende, se lo porta via. Buonasera. Ciao Cla. Avanti Lu. Hanno fatto loro il negoziato direttamente il reso? Sì, te lo sto dicendo. Mi hanno dato l'appuntamento per lunedì prossimo. Vengono, se lo prendono, se lo portano via senza pagare nemmeno un centesimo e poi ci sarà o il rimborso oppure la spedizione di un altro. Tutto lì. Vai, riprende e fai girare. Se no te ne fai mandare un altro modello, capito? Gianni? Ciao Claudio, va! Buonasera a tutti, KK, e cos'è che hai perso Giulio? Niente di particolare, un PMR era. Un PMR che si è messo il blocco della tastiera e non riusciva più. E allora l'ho spedito indietro, me l'hanno detto loro stesso, viene lo spedizioniere a casa tua il giorno tot, il giorno 18 per esattezza, lunedì della prossima settimana mi sembra che sia, e senza pagare niente, se lo prendo ci mettono un numero di codice sopra e lasciano la ricevuta e poi si vedrà, o rimborsano oppure me ne spediscono un altro uguale. Non lo so, se me danno i soldi meglio, non vedo problemi, così poi mi comprerò un'altra cosa. Avanti, riprendi. Gappa, è successo anche la mia figlia con Amazon, però con Amazon mi ha mandato un paio di scarpe. Hanno sbagliato il numero e hanno fatto la stessa cosa, però sono andato io, con il codice che mi hanno dato loro, sono andato io, l'ho spedito, ma senza pagare niente, non ho pagato niente. Va bene, avanti già, ripeti. Io mi guardo, mi sono sbagliato adesso perché purtroppo ho avuto lutto in famiglia, quindi ero tra telefono di questo, quell'altro, i pariti che mi chiamavano, eccetera, e non mi hanno fatto riposare molto. E chi ti è morto? Mio cognato è morto. Quello del supermercato? No, quello che fa il giovane. Sono andato alla figlia a portare il telefonino a casa, da telefono che non funzionava il telefonino. Detto, sembrerebbe portare un altro per sostituirlo. La figlia è andata a casa con il marito a portarlo, sentiva il televisore ma lui non rispondeva. Detto, forse non mi sente perché c'è il televisore alto. Ha aperto con le chiavi, c'è la chiave, ha trovato a sé come la sfida. E cos'è che è il fratello Liliano? No, è il marito di mia sorella. Di tua sorella? Quella di Pavopoli? No, un'altra. Io ne avevo tre sorelle, adesso ne ho due. E vabbè, comunque, sono di mia sorella, dai. Sono di mia sorella. E vabbè, purtroppo la notte è così. Cosa voleva? Uscire e vabbè, faccio condoglianze, fai condoglianze a tua sorella, purtroppo la vita è questa. Avanti Luca, riprendi. Vai Luca, riprendi Giulio. Sì, ok. Sì, tornando alla, al mio discorso, sì, con Amazon lo stesso, anch'io tramite Amazon avevo preso questo BMR e ho messo il blocco tastiera, boh, e non è più uscito. E dunque non potevo fare nessuna operazione, perché hai i tasti nel microfono, eccetera. Non c'è stato verso di toglierlo in nessuna maniera. Allora l'ho impacchettato, pronto per la spedizione. E loro stessi mi hanno detto, vieni allo spedizioniere a casa, lo ritira e ciccia. E poi vedrà un po' come lo rimborsano, una novantina di euro, quasi 90 euro, oppure me ne manderanno un altro, non lo so, se mi mandano è solo di meglio, se mi mandano lo stesso un altro paziente è uguale, no, non c'è problema, solo che non mi ha convinto molto, vabbè comunque, andabè. Tornando a te Gianni, tuo cognato, purtroppo la vita è crudele, io l'ho sempre detto, la vita è crudele, non c'è niente da fare, da un momento all'altro uno che ha città non c'è più, ma comunque saremo a vedere come si tira avanti. A proposito, Tonino e Emanuele, partiti sono, Claudio? Sì, sono partiti, stamattina anche. Non so se hai fatto anche Emanuele, ma Tonino sì, no già. Sì, tutti e due, mi ha chiamato stamattina, erano in treno, mi ha chiamato e stavano andando verso Pisa. E niente, ha detto che era stato tutto bene, la traversata, che prima il mare l'aveva mosso, qui si è calmato, dice che è diventata una tavoletta, ci hanno visto tutto lo spettacolo di viaggiare di giorno, eccetera. No, già sono, già hanno viaggiato bene, adesso dovranno andare a Firenze e dopo da Firenze non so se devo prendere un altro mezzo per andare a Bologna. Tutto un casino, non ho capito tutto questo casino, io sono andato a Bologna e fai direttamente in aereo, cosa è stato versato, non ho capito perché, vabbè, ognuno fa quello che vuole. Io ho fatto a Bologna diretto, quindi vabbè, e poi da Bologna ho preso il treno per andare a Reggio Emilia. Va bene, ma non è bella roba cinese, Giulio, ma è cosa roba cinese. Ma se ti uno c'è prendere un bel BMR, ti spendono volte soldi e basta. Io quando avevo preso il portatile, vabbè, il portatile che usavo io, anche se c'era il BMR, però di quelli sono buoni, quelli in box che sono molto buoni, lo paghi di più, però vanno bene, capito? Roba di meta non serve a nulla, non serve, lascia perdere, va bene, è così, sta preparando una perturbazione per domani allucinante, sono raffiche di maestrale, stavo guardando sul sito appunto nostro della prefettura, della protezione civile, minchia, sono raffiche di vento del maestrale a 80-90 km orari e tra l'altro un temporale allucinante, poi associato al vento di tramontana, a Cagliari da meno 3 gradi, voi immaginatevi Cagliari che è più caldo di Sassari, meno 3 gradi, a Sassari cosa avrei allora? A 0 gradi siamo domani, avanti Giulio. Un periodo questo del tempo si sta facendo sentire abbastanza pesante, d'altronde non ci possiamo fare niente per queste cose qua. Lo so, Clara, era un BMR che attaccava direttamente con l'elettricità, no, sempre quello ce l'ho, non ce l'ho lo stesso, il BMR, la voglia, ma giù tre, si può immaginare. quello era il 4 addirittura, solo che quello era una comodità perché non devi caricare mai la batteria, perché funzionava l'alimentazione con l'alimentatore direttamente, sicché andava bene per quello. No, un funzionale funzionava bene, solo che è bastato mettere il blocco tastiera, boh, non è più uscita, non sono riuscito in nessuna maniera a toglierlo. Infatti c'era lo stemma della chiave sul monitor, bene visibile, e niente da fare. O è successo qualcosa al tasto del lock, non lo so, comunque vabbè, ormai è pronto per la spedizione. Non c'è problema. E così è. No, ma intanto non mi interessa più tanto, ripeto, ne ho il solito, anzi ne ho due uguali e uno un po' diverso, ma va bene anche quello. Ne ho tre, questo sarebbe stato il quarto. Ma comunque, andiamo dai. Sì, ma tornando al discorso di Tonino con Manuele, no, tu hai ragione, direttamente a Bologna con l'aereo, ma non ha trovato il biglietto, mi stava dicendo Tonino, e allora ha dovuto prendere la nave, perché se no, ma non andava da Bologna, a Bologna c'è la zia di Manuele, che poi tra l'altro è una ex moglie di un mio cugino anche, e andava a Piacenza, mi sembra, loro dovevano andare a Piacenza, l'intervento lo dovevano fare lì, se ricordo bene, non a Bologna, ho capito, Gianni? Sì, vabbè, comunque, il problema è questo, c'era l'aereo, però c'era quello dell'Italia, costava un po' di su, e per evitare quello ha fatto questo giro, capito? No, mi stava dicendo, quando un paio di giorni fa, a Torino, il giorno prima che partisse, mi stava dicendo che l'aereo non ha trovato biglietto, e allora, siccome doveva andare, perché c'era appuntamento con l'ospedale, e allora ho dovuto prendere la nave. E vabbè, è uguale, interessante che sia arrivato là fuori, il resto non conta niente. Poi al ritorno magari torna con l'aereo. Avanti qua. No, io anche a me mi ha accennato qualcosa del genere. Mi sembra che non c'era la possibilità di andare appunto con l'aereo, perché non viaggiavano sino a Albu, non mi ricordo, qualcosa del genere me l'ha accennato. Comunque l'importante è che arrivino lì in una maniera o nell'altra, poi già va bene lo stesso. Sì, ho capito qual è quello che hai preso. Ho capito, ma di solito quando metti il lock che si inserisce la chiave c'è un codice per uscire. Non so, io ho una radio, soprattutto voi, il 599, quello grande della Linco, è così lo stesso. Schiacci il lock e appare la chiave, poi devi praticamente mettere dei numeri nel display, non con la tastiera del microfono, però con la tastiera del microfono, e poi schiacci nuovamente il lock e si disinserisce, capito? Quindi bisogna avere, non so se tu hai detto il manuale, ma penso di sì. Comunque guardaci pure che c'era qualche blocco a questi livelli, perché di solito il blocco lo metti sì dalla radio, schiacci il lock e poi lo disinserisci dal microfono, se c'è la tastiera di TMF nel microfono lo disinserisci da lì inserendo dei numeri di codice, capito? Non lo so, comunque ormai se l'hai spedito va bene così, dai, avanti già. Troppo complicato, non sapete portare. No, era tutto dalla tastiera, non c'era la funzione lock dal monitor, non c'era, direttamente dalla tastiera del microfono. E poi ho trovato la spiegazione, siccome le mie istruzioni era in inglese, ho trovato la spiegazione in italiano, ma non diceva niente in proposito. L'ho letto tutto, 36 pagine, ti puoi immaginare, e non diceva niente in proposito. Per cui, e allora, sarà qualche segreto cinese, cosa ne so. Questo è come il virus, inventano il virus e poi non dicono niente al mondo intero. E così hanno fatto questo un BMR. Oh, yeah. Vabbè dai, se non scherziamo anche. Luca, aiù, esci una fura. Luca stava volando sicuramente. Riprende qua. Gappa. No, già non sono complicati, sono delle funzioni normali, cosa c'entra? Come in questo radio qua c'è il lock, lo disinserisci normalmente, in certi VHF c'è questo tipo di sistema, capito? VHF, io li ho avuti di radio così, però ci sono dei codici per disinserirlo, capito? Quindi collarci pure che la funzione era abbastanza semplice, ma bisognava capire qual era. Tutto lì si fa, avevano fatti questi tipi di, proprio perché molte volte si lasciava la radio accesa, i bambini andavano lì e ci mettevano a parlare. Invece con quel codice lì, una volta che ti appare la chiave, tu schiacci il PTT e non va in funzione la radio, capito? Quindi è un sistema di blocco totale, è come un reset, no? Capite? E vabbè, infatti ne vado a mazzo. E stai attento a non toccare nuovamente quello. Cioè non hai bisogno di minore, di Giulio, riprendi. No, ma il discorso è questo, che non c'era niente da sbagliare. Tu metti il lock dalla tastiera del microfono, perché nella radio comando del lock non ce n'era, per cui o c'è o non c'è. Una volta l'ho messo, diverse volte l'ho messo e sempre andava bene. L'ultima volta metto il lock, e non è più uscito, sempre con lo stesso modo, perché schiaccio una volta e appare il lock, cioè la chiavetta. Schiaccio la seconda volta e la togli. E beh, a questo punto invece è rimasto il blocco e non c'era più nessuna funzione. Cioè non c'era nessun tasto che funzionava più. Perché? Perché c'era il blocco. Per cui il microfono è come che non lo toccavi nemmeno. Perché? Perché aveva bloccato e non c'era più nessunissima funzione. Nulla. Per cui, l'unica cosa che faceva è che accende, questo sì, accende anche il monitor, arriva il QRM, lo puoi silenziare, tutto quello sì. Però se vuoi cambiare le frequenze, nulla la va. Perché tutto quello si faceva dal microfono. Niente da fare. Perché? Perché il microfono era completamente bloccato. Non andava più. Ecco, tutto lì. Poi, adesso ho qualche contatto nel microfono, questo non lo so. Allora sì, anche, lo sa. Comunque, roba cinese, vabbè, comunque, riprende già. L'ho trovato perché un radioamatore lui l'ha tradotto, poi io me lo sono fatto tradurre anche, quindi ho problemi dell'inglese, non ho io a casa qua, a me me lo traduce mia figlia, me lo può tradurre anche mio genero, per cui soprattutto mio genero che lo parla correttamente, lo parla, lo scrive anche, non c'è problema, ma non c'era una minima sillaba che si riferisse a questo problema, nulla, 36 pagine, non una, 36 pagine, ti puoi immaginare, pertanto allora ho preferito, comunque, è andata così pazienza, non è un problema, avanti Claudio. Sì, c'è una volta che inserisci il lock già, poi no, perché c'è tutto dal microfono, capito? C'è una tastiera di TMS, comanda tutto da lì, e quindi automaticamente è come che la radio non funziona, non si muove da dove l'hai messa, capito? Vabbè, comunque lì può darsi pure che sia andato a farsi fottere il microfono, che è quello che comanda tutto. Perché la radio appunto non abbia niente, però chiaramente se la devono sostituire. Va bene. Non è entrato altro nessuno stasera già. No, c'è stato Luca Pippa, e poi c'è si può sveggere, invece mi ha fatto break e nessuno mi ha risposto. Poi è entrato Luca e siamo messi a parlare con Luca e il dottor Giulio, poi c'è stato. Va bene, avanti Giulio. Ok, vabbè, comunque così. E cosa ci vogliamo fare? Niente. Però adesso a questo punto se mi restituiscono i soldi li preferisco, ma sai perché? Ma non per il fatto del sud, perché aggiungo la differenza per comprare un baracchino. E siano grido, e me ne frega, non me ne frega niente del PNR, tanto più che ce li ho, ne ho altri due uguali, e poi ne ho un altro nero, quello, e in tutto sono tre, ma per quello che li usiamo. Vedi, ad esempio, in questi altri due che sono uguali c'è anche lì il blocco tastiera, certo che c'è. Uno ce l'ho già, roba di 3 anni, buoni, e non si è mai bloccato, anche se mi è caduto per terra. Mi è caduto una volta per terra, l'unica cosa che è successa quando mi è caduto è sparito tutta la scritta del display. Infatti è per quello che ne ho preso un altro. Sì, che ti puoi immaginare, adesso ce li ho tutti e due, quello là, anche se non si legge niente nel display, però funziona tranquillamente, non c'è problema. Va bene, dipende. Luca, pace bene a tutti. Ehi, Don Gianfra, buonasera. No, mi sta venendo il dubbio, Giulio, poi ti faccio entrare, Gianfra, mi sta venendo il dubbio, Giulio, perché... io li portati lo stesso, ne ho 4, ne avevo 5, uno l'ho regalato proprio al signor Filippo della Voxon, molto molto buono, un bel portatile, non cinese. Uno di quelli, esattamente, qua Gianfranco tu mi confermi, proprio di quelli che usiamo noi, no? Quelli che mi hai detto tu, per attivarlo dalla tastiera di PMF tu pigi il pulsante e ti appare la chiavetta. Per disinserirlo, se non schiacci Function, fai prima Function, dove c'è scritto Funk, ok, Funci praticamente. Se tu non schiacci quello e poi rischiacci il pulsante non te lo disattiva. Sì, ho capito, ma tutte queste funzioni non ci sono. Nella tastiera, nel microfono, cosa credi che c'era? C'era il dock, c'era il come si chiama, il menu, e basta. Ah, è lo scanner, no, basta, tutto il resto erano tasti per digitare la frequenza, niente di più. No, è roba cinese, claro, non era quelli belli, il Vox è un'altra cosa. Guarda musica, quello è professionale proprio, perché è un giocato. Va bene, avanti Gianfranco, buonasera. Sì, buonasera a tutti. Sì, Giulio, non usare quella parola, da bravo, professionale sui Vox, mamma mia. Mi sta venendo freddo alla schiena, professionale un Vox. Poi, sì, sono nell'aspetto sono buonini, ma stendiamo un piattoso velo, però ecco, sono giocattoli per bambini un po' grandi. Cosa volevo dire? Sì Claudio, a proposito proprio di questo argomento, ma poi ci sei riuscito a caricarlo quel cavolo di portatile? Punto di domanda. Non so se ci siano altri perché non ho fatto grande ascolto, e quindi rilancio a te e poi rilanci a chi è in bianco, ecco. Ma i portatili nostri, quelli là? Sì. Stanno di nuovo scarico, non lo so, l'ho rimasto l'armadio già fa, perché non voglio più avere niente, sono tutti dentro l'armadio portati, ce ne sono 4 di quelli, altri 2, te ne avevo 7, uno l'ho dato al signor Flipper. E niente, sono lì negli armadi, perché devi di nuovo fare quella prova? No, perché quella prova non l'abbiamo mai fatta in realtà, volevo sapere se non c'è un certo apparecchio, è almeno compatibile con quelli. Comunque, già c'è tempo, dai, adesso proseguiamo qua. Quindi, che cielo. Gianni anche mi ha sembrato di sentire. Gianni? Ciao Gioffa, buonasera, dai. Ehi, sì, ci sono. Allora, comunque ci sono quelli, dipende sempre dai contatti, perché io ne avevo uno da Giapparino. Ne avevo uno che lo contasti, premibile il tasto, quello di premibile lo sbloccava, lo stesso tasto. Sì, quelli sono quelli più semplici già, però ad esempio io ho due che sono appunto digitali, non so come dice Gianfranco, e hanno questa funzione, però devi, nella tastiera DTMF c'è la funzione function, ok, e tu schiacci quello e poi disinserisci automaticamente la chiavetta. Se tu pigi dove c'è il lock praticamente per bloccarlo, non te lo fa disattivare, capito? E così è lo stesso il 599 della Lincoln, il veicolare che c'ho io, il B-Band, anche quello è la stessa cosa. Vabbè, se lì non c'era vuol dire che qualcosa è successo a Giulio, dai, non fa niente. Sì, Gianfranco, quando vuoi la facciamo quella prova, ci metto poco, mi avvisi, lo metto a caricare e si fa, dai, capito? Avanti Giulio. Ok, beh certo. No, ma io già avevo qualche dubbio al primo momento, poi ho fatto, ma vediamo un po', dai, lo voglio prendere, l'ho preso e poi invece è andata come è andata, col cuore che l'ho preso e mi è andata, allo stesso modo. Ma, ripeto, qui a Sassari ci sono almeno altre due persone che ce l'hanno, uguale, identico, anche perché io avevo sentito uno di loro, come modulazione era bellissima, proprio bella, potente, eccetera. E mi sono fatto dare tutti gli estremi, no? E così è stato. Ho preso, l'ho ordinato e invece è andato come è andato, pazienza. Però in un primo momento avevo qualche dubbio, ho fatto, ma sì, dai, voglio tentare, non saranno questi 90 euro che mi fanno il povero. Per cui allora è invece andata male, pazienza. Avanti Gianfra. Sì Giulio, non ho capito, però dopo il problema, ho preso un apparecchio nuovo, mi è sembrato di capire, però non riesco a farlo funzionare. Poi me lo spieghi meglio, perché non ho capito la cosa. Riprendi Claudio. Datemi un secondo, sono qua, mi sto ascoltando che devo fare una telefonata, un secondo. Sì, allora riprendi Giulio un attimino, spiegami cosa è successo. Hai preso il portatile e non funziona. No, non è che non funzionava. Funzionava, si è bloccata la tastiera, cioè avendo utilizzato il blocco tastiera poi non sono riuscito più a toglierlo e non c'è stato verso in nessun modo, guarda, e purtroppo è rimasta così bloccata. Io ho pensato probabilmente a qualche difetto nel tasto che si schiacciava per bloccare la tastiera, magari qualche contatto, non lo so, so solo che un paio di volte mi è andata bene, l'ho usato un paio di volte, mettevo il blocco e andava bene. L'ultima volta che l'ho usato, dopo 5 minuti ho messo il blocco, vado a toglierlo e non è uscito più. È rimasto bloccato la tastiera e non c'è stato verso in nessuna maniera. Ripeto, era un giocattolo, non è che era niente di particolare, era un giocattolo, una cosa cinese, sì che ti puoi immaginare. Però sono sempre 90 euro, circa 80, 87 mi sembra, se ricordo bene, una cosa del genere. Ma comunque, no, ma sono stati bravi, perché io ho telefonato, ho avvisato e sai cosa hanno fatto Gianfra? Tu non si preoccupi, lo metto dentro la scatola, ce lo mandi indietro, anzi viene addirittura lo spedizioniere a casa sua, lo ritira, lo rilascia una ricevuta e ce lo porta qua. Si scrive di bene, no? Tramite Amazon o Gianfra. No, ho visto che si comportano bene, una bella organizzazione, dai. anche se il governo italiano non è contento di Amazon perché paga lo 0,02 di tasse per tutto, di tutto il fatturato che fanno, praticamente non paga niente, è dassi. Dai ancora Gianfra. Ho capito, ma sì, quindi l'hai rimandato indietro, hai fatto zero. Sì, io sono un grande cliente di Amazon, io ogni mese almeno ne faccio tre ordini, quindi all'anno sono parecchi, infatti sono abbonato, io un cliente Prime, e mi danno anche la TV, diciamo, Prime Video gratuito, e Prime Music anche, insomma, tante cose. E niente, magari c'era qualche errore di impostazione, lo voleva riprogrammato, quindi niente di veramente serio. Comunque Amazon è molto precisa, c'è un'organizzazione da paura, veramente. E, tra l'altro il proprietario è quello che vuole andare, cioè che vuole, che manda, che fa turismo nello spazio, sempre che, cioè, il biglietto costa molto caro, però ti può mandare anche nello spazio, se vuoi, se è su. Riprendi Gianni. Gianni, ci sei? No, c'è. Vediamo un po' se rientra Luca. Luca, ci sei? Giulio, a quanto pare sono tutti allontanati. Stasera mi sono divertito moltissimo, perché in 27, che mi sta veramente riservando tante, ma tante sorprese, sembra di tornare ai vecchi tempi. Sono riuscito a ricevere anche una telefoto, perché stanno usando anche questi sistemi, quindi in 27. Mi fa molto piacere, peccato che in Italia siamo allo stato, diciamo, di preistorico ancora. E ho ricevuto una foto, una bella cartina geografica, e non ho capito ancora perché le scritte sono piccoline dove si trovare. E poi mi sono anche spostato poco fa, sono andato su un po' più in alto, mi ho sentito un inglese che stava facendo un questo con, forse con qualche americano, ed è veramente chiari, è veramente bellissimo. Poi ho controllato anche sul sito che ha, e c'è una bella stazione veramente. E caro Giulio, proprio in questi giorni, che grande soddisfazione con questo tipo di preparazione che c'è tutta la sera. Sì, l'ho sentita anche ieri, ero all'ascolto sui canali un po' in alto, dai, intorno ai 27, 550, 555, in quella frequenza lì, ed ero in banda laterale, stavo ascoltando, sentivano molto bene. Sì, ma io mi ricordo, quando c'è una propagazione buona, veramente, io una volta sono arrivato addirittura in Florida, caspita, mica in Florida, siamo in America, e non è semplice, non è facile. E io non ho avuto mai nessuno lineare, non sempre, con subito baracchino, tranquillamente, questo risale a due anni e mezzo, tre anni fa, più o meno, una famiglia italiana, che appunto abitano lì perché erano emigrati, e mi hanno detto che c'è una zona dove c'è una schiera di italiani che non finisce mai, è praticamente una specie di borgata, come può essere, che so io, i Punti oppure Sant'Orsola, tanto per fare un esempio, ecco, una zona dove c'è tutta la gente emigrata, soprattutto italiani. E questo mi ha detto, dice, guarda, io sono in Florida, sì, ma vedo sì, ma che ti dico che sono in Florida? E infatti poi mi aveva mandato una specie di cartolina, ma era un coso di carta praticamente, e ce la dovrei avere, da qualche parte ce l'ho ancora, sicuramente. E poi dite, no, quando c'è la propagazione, no, riesci a passare dall'altra parte della terra, però bisogna che ci sia la propagazione adatta. Ed eravamo di mattina, mi ricordo, durante la settimana, io ero a casa, E di mattina avevo acceso la radio e appunto ho sentito questo ragazzo, questo giovane, un uomo, non lo so, che era lì, tutto lì, ho già parlato. Sì, vediamo se è rientrato Gianni? No, sparito. Non so se sento, sotto si sentono tante voci anche su questo canale. Sì, quando c'è quell'estito, a me meraviglia avere questa preoccupazione un po' strana, perché non è esattamente il periodo, però dato che sta capitando di tutto e di più, tu pensa che in Grecia sono a 35 gradi, cose fuori dal pianeta, quindi temperature folli, mentre qua anche domani, credo dopodomani, ci sarà un'ondata di freddo da paura, non si sa neanche cosa fare. E così, Giulio. Sì, no, ma mi ha meravigliato il fatto di poter ricevere anche tutte le foto, perché questi 27, adesso non so cosa siano, se siamo tedeschi o russi, ma c'erano molti russi, c'erano greci. I greci erano qua sotto, vicino al canale 1, per intenderci, e poi c'era anche qualche spagnolo, quindi chissà dove era quello lì. Sì, beh, è sempre quello che io ho fatto dei miei collegamenti a Voglia, per cui non c'è problema. No, quando la propagazione c'è, addirittura anche con l'antennino, non mi ricordo, ma anche quest'anno, insieme a Gianni, insieme a Roberto l'avevo fatto, un altro giorno ancora, insieme all'altro Gianni il profeta, e tutti quanti, ma tutti a livello di 9.30 arrivavamo lì come segnale, perlomeno così mi davano. Addirittura da Lecce mi c'è un amico che io alle volte ci parlo anche tramite YouTube, no? Non su Facebook, no, su YouTube è diverso. E addirittura mi aveva mandato anche la registrazione del segnale che stava arrivando. Santiago 9 è oltre pieno, da Lecce, ti puoi immaginare. Ma ci sono dei momenti anche 9.30, dipende dall'evanescenza della propagazione, perché magari ci sono momenti che arriva Santiago 5, poi il confusale e può arrivare anche oltre i 9, per cui non c'è problema, ma questo è dappertutto. Tante volte quando sento lo straniero faccio chiamata, loro sentono l'italiano e subito avanti italiano, no, però poi io ci rinuncio perché intanto non capisco la lingua, sicché quella faccio finta di non sentire di più. Ma per dirti, no, finché sono italiani e qualcuno che parla in italiano, allora vabbè, non c'è problema, anche se sono all'estero ci parlo e ci chiamo. Ma diversamente no, che cosa faccio? Quando mi parlano io non cosa rispondo se non capisco la loro lingua. Vai, gioca. Sì, vabbè, ma quello non sarebbe un problema, diciamo, se avessero gli indicativi, ecco, almeno puoi dire ascoltato qua, ascoltato là. Il problema è che nella 27 non c'è indicativo, capito? Quindi non riesci a capire quando uno è lontano dov'è, o se qua vicino, perché ci può essere anche un francese che magari sta parlando in inglese con gli Stati Uniti o con altre parti, ecco. Quindi banda radioamatoriale, diciamo, è più facile, perché quando dice la sigla più o meno vai sull'elenco e lo trovi subito. Io ad esempio